312. Cotolette di vitella di latte coi tartufi alla bolognese. Il posto migliore per questo piatto è il sottonoce, ma può servire anche il magro del resto della coscia o del culaccio. Tagliatele sottili e della dimensione della palma di una mano. Battetele e date loro una forma smussata ed elegante, come ad esempio la figura del cuore, cioè larga da capo e restringentesi in fondo, il che sottiene più facilmente tritando prima la carne con la lunetta. Poi preparatele in un piatto con agro di limone, pepe, sale e pochissimo parmigiano grattato. Dopo essere state un'ora o due in questa infusione, passatele nell'uovo sbattuto e tenetecele altrettanto. Poi panatele con pan grattato fine, mettetele a soffriggere col burro in una teglia di rame e quando saranno appena rosolate da una parte, voltatele e sopra la parte cotta distendete prima delle fette di tartufi e sopra queste delle fette di parmigiano o di gruyera, ma sì le une che le altre, tagliatele sottili il più che potete. Fatto questo, terminate di cuocerle con fuoco sotto e sopra, aggiungendo brodo o sugo di carne. Poi levatele pari pari e disponetele in un vassoio, col loro sugo all'intorno, strizzandoci l'agro di un limone o mezzo solo se sono poche. Nella stessa maniera si possono cucinare le costolette di agnello, dopo aver ripulito raschiandolo l'osso della costola.